Radio 24 Reportage. "2011, ritorno a Lampedusa", di Raffaella Calandra. Ammassati sul molo Favarolo, i barconi degli immigrati quasi superano i pescherecci e i tunisini, in questo momento a Lampedusa, sono più della metà degli abitanti dell'isola. Il terremoto nel Nord Africa ha riaperto le rotte di un esodo che tutti ormai definiscono biblico e nel mezzo c'è di nuovo Lampedusa, di nuovo approdo in pochi giorni di più di 5.000 persone. Siamo arrivati tutti insieme, siamo arrivati 280 persone. Sono giovani, sono quasi esclusivamente uomini, sono tutti tunisini e ora ammassati nel centro d'accoglienza riaperto d'urgenza o prima nel campo di calcio, sulle spiagge, nei saloni della parrocchia o sul cemento del molo, sperano di varcare la porta dell'Europa e cercano qui la speranza di una nuova vita. Il mio nome è Radwan De Gerba, dell'isola De Gerba, arrivato in Italia per lavori, arrivato in barca, 300 persone. Eravate in 300 e siete partiti dal porto di Zarzis? Di Zarzis, sì, partiti dal porto di Zarzis, 30 ore. 30 ore il viaggio, ma soldi, sì. Quanti soldi? 1.500 euro. C'erano altre persone anche a Zarzis pronte a partire? Sì, tanti, per più di 1.000 persone arrivano a Zarzis, in Tunisia tanti morti con arrivati in barca, finito poi arrivati in Lampedusa. Noi in isola del Gerba morti 14 persone. Dove sei diretto, in Italia o in Francia? Gerba lavora avec tanti italiani, tanti albergo italiano. Vorresti rimanere in Italia anche perché sei un tifoso di squadre italiane, giusto? Milan Baresi, Milan Donadoni, Milan Massaro. Buono in Milano, nato in Milano perché Milan milanista. Gradouane faceva il pizzaiolo a Gerba. Gradouane, come Hamed, Zawir, Yusiri, hanno tutti storie simili. Storie di partenze, decise all'improvviso, dopo la caduta di Ben Ali e la successiva incertezza che per qualche giorno ha lasciato i porti tunisini, soprattutto nel Golfo di Gab, senza controlli. Tutti hanno lasciato le famiglie dall'altra parte del mare e confidano di raggiungere amici o parenti in Italia o soprattutto in Francia. Tutti raccontano di soldi, di biglietti, di imbarcazioni recuperate all'ultimo momento, di traversate e di altre migliaia di persone pronte a imbarcarsi sulla stessa rotta. Chi arriva fa il segno della vittoria e applaudi alla terraferma in Europa. Altri non sono arrivati a destinazione. Le prime vittime di quest'ultimo esodo li hanno trovate a bordo di un gommone alla deriva. 3 corpi, oltre ai 5 morti in un naufragio, e nessuno può assicurare che siano gli ultimi finché proseguono le partenze. Da 4 giorni a questa parte noi come guardie costiere ne abbiamo recuperati in mare intorno alle 4.000. Per giorni Antonio Morana, il comandante della Capitaneria di Porto di Lampedusa, è rimasto costantemente lì, al suo posto davanti al mare, perché per un barcone che arrivava altri 4, 5, 10 contemporaneamente erano avvistati all'orizzonte e poco dopo erano tutti lì, tutti insieme. E sull'isola, dopo mesi senza più sbarchi, di fretta e furia è stata riattivata quella macchina dell'accoglienza, rimasta in un certo senso in sonno, a guidarla Kono Galipò. Al centro ci sono 2.000 persone rispetto agli 850 normali che potrebbero entrare. Chiaramente 2.000 in una struttura che potrebbe contenerne 800 pone anche un problema di ordine pubblico. In questo momento la situazione è molto calma, anche perché tutti i cancelli sono aperti. Certo, se la situazione dovesse andare avanti per parecchi giorni, qualche difficoltà in più ci sarebbe sicuramente. Li ha radunati nel centro per spiegare, sì, per quale ragione si trovassero là dentro. Perfetto. Abbiamo spiegato che le forze dell'ordine stavano lavorando per i trasferimenti sulla terraferma. Lo hanno capito perfettamente. L'unica cosa che ci chiedono è non mandateci a Tunis. Cioè sono spaventati e pensano di essere rimandati, sì, nel paese di partenza. Perfetto, sì. Questa è la cosa che chiedono sempre con più insistenza. In che condizioni di salute sono la maggior parte? Allora, la stragrande maggioranza è in ottime condizioni di salute. Noi eravamo abituati con quelli che venivano dalla Somalia soprattutto, che arrivavano in condizioni disperate. Con la vostra cooperativa Lampedusa Accoglienza avete fatto fronte a tante emergenze di arrivi di immigrati a Lampedusa. Ecco, se lei ci dovesse un po' indicare la differenza principale tra le emergenze passate e queste attuali. Questo quell'occasione noi abbiamo verificato la vera emergenza, nel senso che in passato, anche quando il 31 di dicembre del 98 abbiamo avuto 2000 presenze in campo, ma erano arrivati in un arco di tempo di una settimana, mentre qua noi abbiamo avuto per 3 giorni di fila oltre 1000 arrivi al giorno, cioè una cosa impressionante. Erano talmente tanti gli arrivi e il numero di persone che non potevamo sistemarle nelle strutture. Riaperto e subito riempito il centro d'accoglienza, 2000 persone in una struttura che ne può ospitare 800. Si accalcano alla mensa, stanno addossati uno all'altro per dormire. Alcuni sono rimasti in locali della chiesa, dove il parroco Don Stefano Anastasi li accoglie e sollecita interventi, perché, così dice, non si può più andare avanti. Sono ragazzi che lavoravano tranquillamente nella loro nazione, però poi i disagi ultimi dell'ultima settimana li ha portati obbligatoriamente a cercare rifugio altrove. Voi li avete ospitati nella parrocchia prima che aprissero il centro, giusto? Sì, considerato che veniva il no dal ministero iniziale per l'apertura del centro, allora abbiamo pensato di rifugiarli sia nei locali parrocchiali sia nei locali comunali. È un'emorragia legata alla situazione attuale della Tunisia. La comunità di Lampedusa come ha reagito a questi nuovi arrivi? Ma è un po' perplessa, perché un fenomeno così grande nei numeri e nei ritmi non si è mai verificato. Ciò che emerge è il buonsenso e anche l'auspicio che il tutto venga risolto nell'arco di breve tempo. Se per caso pensano di fermarli qui, non si possono lasciare qui queste persone che sono partite per raggiungere altre mete. Era contrario alla riapertura del centro il sindaco Bruno De Rubeis e ora, come tutta la popolazione che rappresenta, è diviso tra l'obbligo dell'accoglienza e della solidarietà e i timori di nuove stagioni di sbarchi, come negli anni passati, e di nuove crisi per il turismo dell'isola. La situazione è un po' critica, perché abbiamo aperto il centro di prima accoglienza, solo che le porte sono aperte e, in considerazione che i militari a disposizione sono pochi, anche se abbiamo avuto i rinforzi per problemi di ordine pubblico, il funzionario ha deciso di tenere le porte aperte del centro, e questo consente agli immigrati che hanno dei soldi in tasca di potersi recare presso i supermercati e comprare, oltre alla spesa, anche bottiglie di superalcolici. Questo effettivamente, per l'esperienza che abbiamo avuto nel passato, può creare seri problemi di ordine pubblico. Il ministro Maroni mi assicura che nei prossimi giorni avvierà di nuovo il ponte aereo per trasferire gli immigrati all'interno dei centri in Sicilia, e non solo, e pertanto siamo in attesa. La consapevolezza che l'Europa sta iniziando a muoversi dopo l'esortazione, il grido di aiuto che il ministro ha lanciato. Adesso si trovano tutti all'interno del centro? 300 immigrati si sono trasferiti dal centro di accoglienza che abbiamo aperto nelle vecchie strutture, vedi, all'area marina protetta ce n'è un 200, perché ormai erano abituati a vedere i loro amici nei giorni precedenti ad essere trasferiti immediatamente con i ponti aerei, pertanto erano abituati che nel giro di un giorno massimo anche loro potessero viaggiare immediatamente e arrivare alla terraferma, cioè in Italia. Dopo 5-6 giorni di sbarchi continui, le notizie dall'altra parte del mare riferiscono di porti nuovamente presidiati, mentre gli accordi tra Roma e Tunisi dovrebbero portare a pattugliamenti delle coste con l'obiettivo di fermare il flusso continuo delle partenze. A tessere i rapporti tra Roma e Tunisi l'ambasciatore italiano Pietro Benassi. Noi ci vogliamo concentrare sul fatto che i porti vengano messi sotto controllo. Lei che tipo di informazioni ha relative alla situazione dei porti tunisini? Zarzis, Sfax, diciamo tutta la vasta area del Golfo di Gabès. Zarzis ha innestato il fenomeno perché, per un motivo specifico dovuto anche a delle distruzioni dei posti di polizia che risalivano alle manifestazioni dei giorni precedenti, ha sofferto, diciamo, di un paio di giorni con un totale deflusso di forze dell'ordine. Questo ha innestato la sensazione che a porti vuoti si potesse partire da dove si voleva. La situazione a Zarzis da questo punto di vista è recuperata e sta gradualmente recuperando anche la situazione degli altri porti. Sulle Sulle coste della Tunisia, ma anche di molti altri paesi del Nord Africa, l'incertezza politica, dopo i capovolgimenti di queste settimane, potrebbe portare molte altre migliaia di persone a partire, fino a 80.000 si calcola, e molti cominciano a prendere la via del mare anche quando il libeccio soffia forte e le onde diventano alte. Ora questi frammenti di Tunisia sono lì, attraccati al molo Favaloro di Lampedusa, diventato un cimitero delle barche, sempre più affollato, sempre più richiesto. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.